Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko al regista Giovannino La Gorga, che appunto do il benvenuto a sui 103.1. Benvenuto a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Lei insieme ad Alessio Borgonuovo siete i registi di un film, From My House in the House, A History of Rome. Volevo chiederle innanzitutto di che cosa si tratta questo progetto. Guardi, è un progetto che nasce da un progetto, nel senso che nel 2018, partiamo da molto prima, insomma, io abito a Roma, in un quartiere famoso che è sito dietro Piazza Navona, il Rione Parione, dove comunque per anni e anni c'è stata una movida romana di fama internazionale, grazie al Caffè della Pace, al Bar del Fico, il locale dove sono nati tutta la scuola degli attori romani, la scuola dei cantautori italiani. Fatto sta che nell'ultimo periodo questa zona ha subito un degrado, vuoi la chiusura del Bar della Pace, vuoi lo svuotamento del centro da parte dei romani per rendere i loro appartamenti dei B&B e ospitare dei turisti mordi e fuggi. Quindi tutto questo è andato un po', questa bellezza è andata un po' a calare sia per i contenuti che propongono i locali che le offerte in generale. Preso da questa malinconia, immagino lo saprete, io faccio più che il regista, faccio da 30 anni il DJ, sono conosciuto a Roma come DJ e ho deciso di aprire, facendo un tantan pubblicitario, un buon ufficio stampa, aprire le finestre del mio appartamento che è sito sopra all'ex, cioè al vecchio Caffè della Pace, che attualmente è ancora chiuso, e ho fatto un evento che si chiama proprio From My House in the House, e sono arrivate circa 5.000 persone, dove ho riportato praticamente tutti quei romani che in questa zona non venivano più, perché ormai è diventato zona altamente turistica. Questa cosa poi abbiamo deciso di riportarla in alcune zone del centro storico di Roma che ha subito lo stesso degrado. Al terzo evento, perché il secondo l'abbiamo fatto a Campo dei Fiori, il terzo a Piazza Margana, con il materiale video radunato insieme al mio amico Alessio Borgonuovo, abbiamo deciso di girare un film e raccontare tutta questa storia, e raccontandola abbiamo piano piano intervistato tutti i vari protagonisti e i protagonisti di quell'epoca meravigliosa che è stata tra la fine degli anni 80 fino a metà degli anni 2000. Ecco, e da qui è nato questo film. A proposito dei protagonisti, ci sono dei nomi molto importanti, tra cui ad esempio Claudio Coccoluto nella sua ultima apparizione pubblica e poi anche tanti altri volti noti del cinema. Le volevo chiedere nello specifico chi sarà possibile vedere tramite le immagini del documentario. Allora, nel film sono tante le persone che abbiamo intervistate, dal regista Ivano De Matteo, dal DJ imprenditore Giancarlino, proprietario di un sacco di locali a Roma, inventore del Goa Club, lo stesso Claudio Coccoluto, Marco Giallini, attore e amico, insieme ad Asia Argento pure, attrice e amica, che hanno frequentato queste zone. Abbiamo intervistato DJ Marco Moreggia, inventore dei Ragazzi dei Terribili, Luis Redio, DJ fama internazionale, producer, inventore pure lui del movimento FCO, che è stata un'organizzazione romana di house music molto importante. Abbiamo intervistato protagonisti, perché oltre ai personaggi famosi abbiamo anche intervistato gente del posto, i commercianti, i proprietari di bar. C'è anche una bella testimonianza di Rino Barillari, che è considerato, viene chiamato proprio The King of Paparazzi, un fotografo, un paparazzo forse il più famoso al mondo. Insomma, sono tante le persone che hanno partecipato a questo film, sono veramente tante, non mi ricordo più di 40. La curiosità mia è anche rispetto alla reazione del quartiere, della gente nei confronti di questi eventi, nei confronti anche di questi eventi legati anche alla musica. Beh, io penso che questa manifestazione pacifica, fatta a suon di musica, possa soltanto fare che del bene, sperando che possa dare un punto di luce in questo tipo di problematica. Sicuramente il momento che è stata fatta, ogni volta che è stata fatta, ha riscosso un gran successo, però questo è, diciamo, un modo, una maniera per creare attenzione alle amministrazioni comunali, insomma. Però io su più di tanto non posso fare, ho cercato di muovere un po', di fare un po' di casino tutto qua. Giovannino, io la ringrazio di questa chiacchierata e le auguro chiaramente un in bocca al lupo per tutto. Va benissimo, va benissimo.